Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Di nuovo una buona giornata da parte mia, ancora una rassegna stampa, ma questa volta, come avete sentito dalla sigla, la rassegna stampa riguarda i settimanali. Infatti siamo a Magazine 24, il nostro appuntamento con la stampa periodica. In regia c'è Filippo Aureggi. A preparare questa puntata mi hanno aiutato come sempre Margherita Aina e Vittoria Mussini. Il tema da cui voglio partire questa mattina riguarda le tasse, solo una piccola citazione da Time, perché sfogliando appunto Time di questa settimana ho avuto conferma che pagare le tasse non piace a nessuno, neanche negli Stati Uniti. Infatti noi pensiamo di essere abbastanza refrattari a questo tipo di obbligo, ma negli Stati Uniti d'America la poca voglia di pagare le imposte è anche più antica. Infatti così scrive Kyla Webley su Time, dice: gli americani hanno cominciato a protestare contro le tasse ancora prima di trovarsi negli Stati Uniti d'America, cioè erano ancora colonie e già protestavano, come si ricordano nelle rivolte contro la madre patria. Però cosa c'è di in qualche modo di particolare nelle rivolte antitasse degli statunitensi, che spesso sono rivolte guidate da cause, come dire, diverse dalla semplice evasione tout court? Non che non ci sia evasione, tutt'altro, ma spesso questo rifiuto delle tasse viene invece legato a proteste molto particolari. Ad esempio, uno dei primi a rifiutarsi di pagare le tasse fu Henry David Thoreau, che nel 1864 finì in prigione perché non voleva pagare le imposte. Il motivo era per protestare contro la schiavitù. Quindi lui, essendo contrario alla schiavitù, finì addirittura in prigione perché non pagò le tasse e scelse questa forma di protesta e ne pagò anche, diciamo, le estreme conseguenze. Ma la protesta negli Stati Uniti, la protesta antitasse, ha anche avuto delle forme particolari. Ad esempio nel 2000, ricorda sempre Time, lo Stato di Washington fece addirittura delle targhe di automobili particolari per lamentare il fatto di non avere abbastanza autonomia impositiva. Si sarebbe detto oggi un insufficiente federalismo fiscale, se volessimo parlare con i termini in voga in queste settimane. Quindi nel 1969 per la precisione, furono invece a migliaia a protestare davanti al Dipartimento del Tesoro perché non volevano pagare le tasse che poi sarebbero state utilizzate per finanziare la guerra in Vietnam. Quindi anche qui un motivo non legato alla iniquità o presunta iniquità del sistema fiscale, ma proprio una protesta politica, una protesta civile contro l'utilizzo che poi si faceva dei soldi pubblici. E da ieri mattina, da venerdì, potete trovare con il Sole 24 Ore il nuovo numero di 24. 24, come sapete, mensile del Sole 24 Ore, un mensile che quest'anno sta svolgendo una serie di numeri dedicati ciascuno a una parola chiave, in qualche modo l'una legata alla precedente. Si era parlato di tecnologie nel numero di 24 il mese scorso, ora in aprile invece parliamo di sostenibilità ambiente, quindi connesso direttamente alle tecnologie. Vi posso già anticipare che a maggio, verso il 20 di maggio, il 21 maggio anzi, sarà poi in edicola sempre con il Sole 24 la nuova puntata che sarà dedicata ai giovani. Cos'ha di particolare questo numero di 24, oltre ovviamente ai molti servizi che potete trovare al suo interno, alle segnalazioni potete trovare, che è un numero a impatto zero. Infatti, come spiega Fernando Rogero nell'editoriale, preferiremmo andare in Madagascar, ma più facilmente ci limiteremo a scendere lungo il Ticino. Una bella sgambata tra i boschi per vedere i nostri alberi, ovvero quelli che LifeGate pianterà nel parco del fiume e in due riserve sull'isola dell'Oceano Indiano per consentirci di realizzare questo numero a impatto zero, compensando l'anidride carbonica, la famosa CO2 prodotta. Una scelta di coerenza per un 24 dedicato alla sostenibilità che vuole raccontare una condizione pervasiva intima dell'attenzione all'ambiente, una sorta di sostenibilità quotidiana, quella che viene segnalata. E proprio per fare una velocissima rassegna dei contenuti, spiega Roggero, nelle prossime pagine troverete storie aziendali emblematiche dalla californiana Patagonia, che monitora l'andamento delle onde per i dipendenti, che sono poi invitati a imbracciare la tavola da surf durante l'orario d'ufficio, naturalmente quando l'onda è propizia, fino a colossi del lusso che sono sinceri ecologisti e impongono al loro consiglio di amministrazione un responsabile per la sostenibilità. Addirittura ci sono delle proposte, leghiamo i bonus dei manager, i compensi extra dei manager alla loro capacità di ridurre le emissioni in atmosfera. La strada da percorrere, però, avverte Roggero, è ancora tortuosa, lo capisce bene il finto imprenditore dell'inchiesta di 24. E questo è un articolo di cui diamo anche una rapida lettura, diciamo un bellissimo articolo in cui, spacciandosi in qualche modo, fingendosi imprenditore che vuole tagliare le emissioni, un collega o una collega si è presentato in una serie di uffici pubblici per chiedere come fare a appunto farsi certificare la sua coscienza ecologista, il suo modo di produrre ecologista. E non è affatto semplice, o almeno non è così semplice come uno potrebbe augurarsi che fosse, in modo da poter invogliare anche il più gente possibile a intraprendere questo tipo di scelte. L'autore del testo viene lasciato rigorosamente anonimo, viene presentato come Mr. Black. Le peripezie di un finto imprenditore con la coscienza ecologica, intenzionato ad acquistare diritti di emissioni a tutti i costi. Risultato: un giro dell'oca tra regione, camera di commercio, intermediari e consulenti. E qui Mr. Black, insomma, racconta passo dopo passo in quali uffici si è recato. L'esordio dell'articolo è il seguente: inquino, lo confesso, mi autodenuncio, uso l'auto, accendo le lampadine, faccio andare la lavatrice, classe energetica B, ma mi sento in colpa con l'ambiente, così in colpa che invento un consumo di 1 milione di kilowattora all'anno, mi presento agli uffici pubblici dicendo: ho una fabbrichetta in provincia, 16 dipendenti, un bel giro d'affari, lavoro 1000 tonnellate di plastica all'anno e con queste vaschette, però di queste vaschette del loro impatto ambientale mi sono pentito, mi pento, voglio mettermi in regola, voglio incollare sui miei ipotetici manufatti, naturalmente l'attività di questo imprenditore è assolutamente fittizia, un marchio verde per fare delle vaschette a impatto zero, fatemi piantare alberi nelle foreste equatoriali, fatemi comprare diritti di emissioni. Ecco, questa è l'iniziativa. Come si fa è un po' difficile, lo racconta appunto Mr. Black, che prima passa alla Camera di Commercio ma viene rimandato agli uffici della regione, dagli uffici della regione tra l'altro poi passa in più sedi, gli spiegano che poi effettivamente ha bisogno di una certificazione che dovrà procurarsi in qualche modo in proprio, poi passa all'intermediario per la borsa delle emissioni, quindi un ulteriore passaggio, anche qui poi scoprendo delle cose particolari per cui si possono avere, diciamo, delle emissioni più o meno convenienti, e poi alla fine il consulente ambientale e l'ente certificatore. Insomma, un passaggio davvero tortuoso per arrivare a comprendere come fare a rimettere in regola, a portare a impatto zero la propria produzione, in questo caso, ripeto, assolutamente fittizia, ma utile soltanto per dare lo spunto di questa inchiesta presentata sul numero di 24 in edicola da ieri con il Sole 24 Ore. E allora restiamo su 24 per parlare sempre di sostenibilità, ma di sostenibilità questa volta legata a un altro evento che ha caratterizzato, sta caratterizzando Milano proprio in questi giorni. Mi riferisco ai saloni del mobile e del design in genere. Ovviamente ne avete sentito parlare molto anche qui a Radio 24. 24, cioè il magazine del Sole 24 Ore, presenta sulle sue pagine una serie di prodotti ispirati più a al design di tipo ecologico, con un'attenzione ambientale, ma ha anche fatto una sorta di giro d'opinione tra i produttori che sono qui impegnati nel salone, chiedendo come è mutata la sensibilità ambientale della clientela e quali sono magari i prodotti che più di altri incarnano questa sensibilità. Quello che emerge da questo giro di una decina di operatori, anche molto importanti, è che c'è sì una diffusa sensibilità, ma spesso il mercato italiano si è mosso con un certo ritardo rispetto a quello che è avvenuto sui mercati anglosassoni o nord europei. Ernesto Gismondi, che è il presidente di Artemide, dice: comunque i clienti sono sempre più sensibili ai temi ambientali, chiedono spesso apparecchi di illuminazione dotati di LED. Noi da tempo infatti spingiamo sul pedale del risparmio energetico. Questo è un po' lo spunto iniziale. Anche Umberto Cassina, che è il vicepresidente di Amedia Italia, dice: il mercato in Europa resta comunque più attento all'estetica e al prezzo che all'ecologia, ma noi ci stiamo portando avanti a piccoli passi, come scelta di materiali, come scelta di finiture. Quindi un'attenzione che deve essere sempre declinata con molta parsimonia, con molta cura nell'intercettare i gusti della clientela, proprio per evitare di dare l'impressione di qualcosa di forzato. Questa la rassegna, sono solo due delle voci che trovate poi in rassegna sul numero di 24. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. Abbiamo al telefono Don Antonio Sciortino. Don Antonio Sciortino, buongiorno innanzitutto. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno Don Sciortino, noi l'abbiamo chiamata questa mattina un po' presto, anche magari per essere un sabato, perché vogliamo parlare di una nuova veste di grafica e di contenuti di un settimanale che spesso viene citato qui a Magazine 24, cioè Famiglia Cristiana. D'accordo. Don Sciortino infatti è il direttore dal 99, se non sbaglio, di Famiglia Cristiana. Tra l'altro è anche autore di un libro che ha lo stesso titolo quasi, La Famiglia Cristiana, una risorsa ignorata. Sì. Don Sciortino, ci dica un po', allora, è cambiata Famiglia Cristiana? Graficamente è molto cambiata, tra l'altro questo possiamo segnalarlo subito agli ascoltatori, ma in cos'altro avete voluto cambiare soprattutto? Intanto, come dice lei, la veste grafica è la prima cosa che si nota. Abbiamo dato un'impostazione grafica molto più moderna, più ariosa, più piacevole, almeno dai primi riscontri che ho dai lettori. Perché i giornali devono essere di servizio, devono essere utili, ma devono essere anche piacevoli alla lettura. Però il vero cambiamento, diciamo, è nell'impostazione, nei contenuti. Cioè, noi abbiamo puntato tantissimo, moltissimo sulla famiglia, abbiamo scommesso sulla famiglia, non perché finora non ce ne siamo occupati, anzi, Famiglia Cristiana è da 80 anni, perché il prossimo anno compie 80 anni, che si occupa della famiglia, delle famiglie, è nata proprio per servire le famiglie, per informarle. Però in un momento come questo, in cui la famiglia viene tanto bistrattata, viene tanto attaccata dal punto di vista culturale, morale, non si forniscono alle famiglie le risorse economiche necessarie perché svolga bene il suo compito, nonostante tutte le promesse dei politici, di tutti i politici, io credo che puntare sulla famiglia come una risorsa sia un tema molto forte su cui questo Paese deve tornare a dibattere. L'editoriale, certo, che io ho messo in questo primo numero dice proprio: ripartiamo dalla famiglia. Infatti nel suo editoriale lei è anche molto severo, perché scrive a un certo punto: siamo un paese vecchio che non ama più i bambini, arriva a metterli a pane e acqua per una retta scolastica non pagata, la stessa maternità dà fastidio, quasi fosse un impiccio, non una fonte di vita e di futuro. Quindi con questo, rilanciando anche argomenti che voi peraltro in questi mesi, in questi anni avete spesso segnalato, il disagio appunto di chi ha una famiglia, di chi ha difficoltà a lavorare avendo una famiglia. Certo, questo paese ha il tasso di natalità più basso al mondo. Fra pochi anni noi avremo una fascia di anziani sempre più ampia, avremo sempre meno giovani, meno bimbi. Senza bambini non c'è futuro, senza nuove generazioni questo paese non può avere speranze. Ora, se una politica che vuole dirsi seria non si occupa di questo problema vitale, io dico che se non inverte la tendenza il paese va verso il suicidio. Poi siamo paradossalmente un paese che si riempie la bocca di famiglia, che dice di amare tanto la famiglia. Come dicevo, ogni passaggio elettorale tutti i politici promettono di tutto e di più alla famiglia, Dopodiché concretamente non si fa nulla. Noi non abbiamo una politica strutturale seria fuori della famiglia. Alla famiglia diamo le briciole, diamo, si avanza qualche soldo dalle finanziarie, dedichiamo solo l'1,1 del prodotto interno lordo, mentre ad esempio la Francia dedica il 2,5, la Germania dedica il 3,2, e allora poi capitano cose come quelle che la cronaca di questi giorni ci presenta, che dei bambini vengono messi a digiuno forzato perché i genitori non vogliono o non possono, ma non ha importanza, pagare la retta, i bambini davanti ai loro compagni vengono messi a pane e acqua. Questo non è degno di un paese civile. I problemi i grandi li risolvono tra di loro, ma mai sulla pelle dei bambini. Questo è un segno di inciviltà. Certo, tra l'altro voi, mi piace segnalare, avete scelto proprio di mettere un neonato, di fatto insomma un bambino di pochi mesi in copertina, e in questo numero molti degli articoli, diciamo una buona parte degli articoli è dedicata proprio ai bambini, alla scuola, ai problemi dei bambini in qualche modo, quindi cercando di mettere fortemente l'accento su questo aspetto. Sì, oltre a fare delle denunce forti nei confronti di una politica che non si interessa seriamente della famiglia, che è la vera risorsa che tiene in piedi questo paese, noi vogliamo anche dare un aiuto soprattutto alle giovani famiglie con figli in età piccola o in età dell'adolescenza, perché oggi per i genitori è difficile sia trasmettere i valori sia fare un'opera di educazione, per cui lei potrà vedere, i lettori potranno notare che abbiamo dedicato una sezione nuova nella seconda parte del giornale che abbiamo chiamato Essere Genitori, dove degli esperti seri professionisti, ma anche con esperienza concreta, perché sono tutti genitori con figli, quindi hanno l'esperienza vissuta alle loro spalle, aiutano le giovani coppie in questo importante e delicato ruolo che è quello dell'educazione. Per cui ogni settimana ci sarà questo appuntamento per dare un aiuto ai genitori. E oggi i genitori, in un momento di smarrimento, di relativismo morale, di morale fai da sé, di crisi dei valori, credo che abbiano bisogno di avere un sostegno a questo importante ruolo di educatori. Io non lo dico per i lettori di Famiglia di Cristiana, che lo sanno molto bene, lo dico a chi tra i nostri ascoltatori non ha visto di recente Famiglia Cristiana: c'è un'attenzione per il dettaglio anche pratico operativo molto forte. Ad esempio, una bella inchiesta di Renata Maderna, Orsola Vetri e Maria Gallelli si occupa di un problema che è assolutamente dimenticato quanto reale. Adesso dove ci mandate? Si intende dove vanno i figli quando la scuola finisce ma i genitori lavorano, quindi non possono occuparsi di loro, e appunto a questo problema, che è un problema vero delle famiglie, è dedicata questa inchiesta di Famiglia Cristiana, tra le molte inchieste, le molte cose operative che proponete. Tra l'altro proponete anche un libro in regalo che si chiama No Cost, guide familiari per il risparmio a ogni costo, dedicato alla casa, il primo di una serie, se capiamo bene, giusto Don Shortino? Sì. Guardi, la nuova Famiglia Cristiana si aprirà, la parte dell'attualità si aprirà sempre con un'inchiesta di tipo familiare che riguarda la famiglia, riguarda i problemi della famiglia, perché dire famiglia vuol dire praticamente abbracciare un po' tutti i temi, dalla scuola, dai problemi del lavoro dei giovani, dell'assistenza agli anziani, l'assistenza a un membro della famiglia disabile, quindi tutti i problemi. Quindi ogni numero avrà un'inchiesta dedicata ai problemi veri e reali della famiglia. Questa settimana lei ha citato appunto questa inchiesta delle vacanze, c'è un lungo periodo di vacanza dove non tutti i genitori hanno la possibilità di poter occupare i bambini, e si pone il problema che dicono i bambini: adesso dove ci mandate, dove ci mettete? Poi, siccome vogliamo dare anche un aiuto concreto, pratico alla famiglia e ai problemi che la famiglia ha in un momento di crisi economica come questa, con il primo numero abbiamo allegato la prima guida no cost. Questa prima guida sarà gratuita su tutta la tiratura, che ricordo è di 1 milione di copie, è uno sforzo notevole. Importante. La prima guida ha a che fare con appunto la casa, poi seguirà le vacanze, la cucina, il risparmio, il fai da te, insomma tante cose molto utili, consigli e indicazioni utili perché la famiglia risolva anche i problemi pratici con cui ha a che fare tutti i giorni. Benissimo, allora noi ringraziamo Don Antonio Sciortino, direttore di Famiglia Cristiana, gli facciamo i complimenti per il bellissimo lavoro che è il risultato appunto di questa riforma grafica e di contenuti in Famiglia Cristiana questa settimana. Grazie molto Don Sciortino. Grazie. Grazie anche a lei, e se mi permette aggiungo una piccola cosa. Prego. Alle ore 14 dell'altro giorno è partita anche la versione online di Famiglia Cristiana. Molto bene, quindi Famiglia Cristiana assolutamente al passo con i tempi, le richieste dell'attualità. Grazie Don Sciortino. Grazie anche a voi. E noi concludiamo con questo saluto di Don Sciortino la nostra puntata di oggi. Vi do appuntamento a domani alla stessa ora alle 8:30 per una nuova puntata di Magazine 24. A domani.